crescere la terra, si sa, si incontrano dove finisce il mare e dove la marea orgogliosa si piega alla risacca e la sabbia si commuove all'inchino dell'onda. Quando è il momento, le stelle non guardano, si voltano piano, sbirciano solo le più vicine, le più coraggiose. È a questo punto che il cielo richiama il suo pubblico all'ascolto e nel silenzio attento del mondo inizia il suo canto. La prima goccia è uno spirito strano, rimbalza sul sasso, ci guarda e sorride. La seconda goccia è un arpeggio lieve, carezza le foglie e rimane nell'aria. La terza goccia detta la melodia, scalda l'animo, scandisce il tempo. Le gocce che cadono dopo lasciano solchi sul volto del mondo, creano fiumi, lo fanno scuro. Un uomo si ferma, ascolta, respira pace a pieni polmoni e infine lo sente. Non sono lacrime, sono mani, mani tese nell'abbraccio più grande che il cielo abbia mai regalato alla terra.